Un bentornati a Rock Legends su Radio RCS, l'onda veronese. Le frequenze le facciamo dire come tradizione ai nostri ospiti, gli Wheels of Fire. Allora, sono 98.6 per la bassa veronese e zone della Lessigna, 101.5 per Verona città e rimanente provincia, 91.5 per la zona Lago di Garda e 94.7 per la Val d'Adige. E poi ragazzi abbiamo lo streaming su www.radiorcs.it. Un salto di un decennio, arriviamo negli anni 80 con alcuni dei personaggi più caratteristici della scena hard and heavy di quei periodi tra Stati Uniti ed Europa, e abbiamo ascoltato il brano Suicide Solution di Ozzy Osbourne dal primo disco Blizzard of Oz del 1980, dove come fedele chitarrista troviamo il compianto Randy Rhoads. Un periodo per Ozzy di ripresa dopo il suo allontanamento dai Black Sabbath e il primo mattone di una carriera che gli ha fatto guadagnare una serie di concerti negli States. Che ne pensate? Beh, Ozzy è lo zio Ozzy, un grandissimo anche lui del rock e del metal, veramente. Dici bene quando dici che, insomma, attraversò un periodo di ripresa dopo essere stato licenziato dai Black Sabbath, dicono per eccesso, insomma, di stupefacenti e di alcol. Voci di corridoio, tra l'altro. Sì, tra l'altro. Esatto, dicono che si rinchiuse un anno a Los Angeles in una stanza d'albergo a ubriacarsi tutti i giorni. Poi, per fortuna, insomma, si riprese e continuò la sua carriera solista, dando alla luce quest'album qua, che è veramente un capolavoro, con Crazy Train, Mr. Crowley e il grandissimo Randy Rhoads. Quindi, per fortuna, insomma, l'hanno tirato fuori, anche se comunque non è che ha smesso di bere, secondo il me, ragazzo. Però, insomma, ha sfornato delle grandi canzoni e continua a farlo in qualche modo, diciamo, ma comunque... gli si perdona tutto ormai al grandissimo Ozzy. Hollywood Rocks è il titolo del vostro disco. Quale significato avete voluto dare a queste parole? Ma guarda, Hollywood Rocks è nata appunto quando feci il mio primo viaggio negli Stati Uniti e mi trovavo appunto casualmente a Hollywood e mi ricordo che di fianco al Roxy Club, un famosissimo club soprattutto negli anni 80, dove insomma esordirono Guns N' Roses eccetera eccetera, c'era appeso appunto questo manifesto enorme con scritto Hollywood Rocks, e allora ho detto che bel nome per una canzone. Allora ho scritto questa canzone, proprio venuta fuori da sola, e abbiamo pensato di dare proprio il titolo a questo album con Hollywood Rocks per insomma fare anche un omaggio a quel periodo degli anni 80 con cui insomma sono cresciuto, siamo cresciuti forse anche Stefano, certo. Sicuramente proprio un omaggio a quelle sonorità e a quel sound, ecco. Nel 1986 esce True as Steel, terzo disco dei tedeschi Warlock, a guidarli Doro Pesce, a grintosa Valkyria dalla voce graffiante. Da quel lavoro ci sentiamo la canzone Fight for Rock. We'll be right back. Artista ancora attiva con una sua band personale che continua incessantemente a calcare i palchi di mezzo mondo. È il caso di dire che il metal mantiene giovani, che ne pensate? Ma direi proprio di sì, dato che lei con Idoro da qui fino alla fine dell'anno ha 32 date. Mica poche. Direi proprio di no. Tra l'altro nella sua band milita un nostro connazionale chitarrista molto bravo, Luca Princiotta. Che io fa piacere ricordarlo, perché è anche insomma, chitarrista di Clairvoyance. Esatto, che io ho conosciuto proprio andando a vedere un concerto di Clairvoyance. Grande personaggio comunque d'oro, e tra l'altro all'età di 47 anni è veramente ancora in formissima. Abbiamo appena visto un suo live, veramente veramente grandissima d'oro. Esplosiva, carismatica. Vostri ascolti musicali quali sono e quanto influenzano la composizione delle vostre canzoni? Sì, influenzano abbastanza, in quanto beh, io sono cresciuto ascoltando rock anni 80, quindi dai Bon Jovi agli Europe, ai Winger, eccetera eccetera, quindi è ovvio che il mio bagaglio era quello, e insomma le canzoni che ho scritto, soprattutto questo CD, sono state influenzate da quello che avevo ascoltato all'epoca. Penso che anche Steve insomma abbia ascoltato quello, e anche lui insomma nei riff, nei soli eccetera eccetera abbia tratto qualche ispirazione. Certo, esattamente. Andiamo allora alla seconda parte con Lita Ford. Dopo l'esperienza con le Runaways, la chitarrista si ritaglia una onesta carriera solista che continua ancora oggi, nonostante si senta pochissimo parlare di lei. Dal disco Out for Blood del 1983 ci ascoltiamo la ballad Just a Feeling. Nella terza e quarta parte ascolteremo 6 brani del disco degli Wheels of Fire, Hollywood Rocks. Stay tuned. It's been 5 days. Minds in a haze. I don't know if I'm coming or going. I'm so confused that you're the one I choose.